Capitolo 155. La morte di Pelia. Una sera d'autunno gli argonauti toccarono di nuovo la spiaggia di Pagase, cara ai loro cuori, ma non trovarono nessuno ad accoglierli. Si era infatti sparsa la voce in Tessaglia che essi fossero tutti morti. Pelia aveva perciò avuto l'ardire di uccidere i genitori di Giasone, Esone e Polimela e il suo figlioletto Promaco, nato dopo la partenza del largo. Esone tuttavia aveva chiesto il permesso di uccidersi con le proprie mani e, bevuto sangue di toro, spirò. Subito Polimela si trafisse con una spada o, come altri dicono, si impiccò, dopo aver maledetto Pelia, che spietatamente spaccò il cranio di Promaco sul pavimento del palazzo reale. Giasone, udita questa orrenda storia dalla bocca di un solitario battagliere, gli proibì di spargere la notizia del ritorno del largo e convocò un consiglio di guerra. Tutti i suoi compagni erano del parere che Pelia meritasse la morte, ma quando Giasone propose di assalire immediatamente Iolco, Acasto gli fece notare che egli non poteva opporsi al proprio padre, e gli altri stimarono più saggio tornare ciascuno alle proprie case dove, se necessario, avrebbero radunato eserciti per combattere al fianco di Giasone. Iolco in verità pareva troppo ben difesa perché un pugno d'uomini potesse impossessarsene. Medea tuttavia prese la parola e si assunse il compito di far cadere da sola la città. Disse agli argonauti di celare la nave e se stessi in una baia boscosa e remota a una certa distanza da Iolco. Quando avessero visto una torcia brillare sul tetto del palazzo, potevano essere certi che Pelia era morto, le porte spalancate e la città praticamente nelle loro mani. Durante la sua visita ad Anafe, Medea aveva trovato un simulacro cavo di Artemide e lo portò a bordo del largo. Poi abbigliò le sue ancelle in strane guise e le guidò verso Iolco. Ciascuna a turno reggeva il simulacro. Giunta alle porte della città, Medea, che aveva assunto l'aspetto di una grinzosa vegliarda, ordinò alle sentinelle di lasciarla passare. Gridò con voce sovracuta che la dea Artemide era giunta dalla nebbiosa terra degli Iperborei su un cocchio trainato da serpenti alati per portare la buona fortuna a Iolco. Le sentinelle attonite non osarono disubbidire al suo ordine e Medea e le ancelle, lanciatesi per le strade come menadi, indussero i cittadini ad abbandonarsi a una frenetica crisi religiosa. Destato dal sonno, Pelia chiese terrorizzato che cosa mai la dea volesse da lui. Medea rispose che Artemide avrebbe ricompensato la sua pietà donandogli una nuova giovinezza e permettendogli così di generare altri eredi per sostituire l'indegno Acasto, morto da poco tempo in un naufragio presso le coste libiche. Pelia esitava, dubbioso, ma Medea, rimossi gli illusori segni dell'età coi quali aveva alterato il proprio aspetto, gli si mostrò splendente di giovinezza. «Così grande è il potere di Artemide», disse. Pelia la osservò intento mentre essa tagliava in 13 pezzi un vecchio ariete mezzo cieco e lo faceva bollire in un calderone. Mormorando colchici sortilegi che Pelia scambiò per formule iperboree e scongiurando solennemente Artemide di assisterla, Medea finse di far ringiovanire l'ariete poiché un agnellino era stato nascosto con magici accorgimenti all'interno del simulacro della dea. Pelia, tratto ormai in inganno, acconsentì a sdraiarsi su un letto, dove Medea con incantesimi lo indusse a dormire. Poi ordinò alle figlie di Pelia, Alcesti, Evadne e Anfinome, di tagliarlo a pezzi, così come essa aveva fatto con l'ariete, e di farlo bollire nel medesimo calderone. Alcesti piamente rifiutò di spargere il sangue paterno, sia pure per una buona causa, ma Medea, dando ulteriori prove dei suoi magici poteri, indusse Evadne e Anfinome a impugnare risolutamente i coltelli. Quando il massacro fu compiuto, Medea condusse le due giovani sulla terrazza del palazzo, ciascuna con una torcia in mano, e disse loro di invocare la luna mentre il calderone bolliva. Dal loro nascondiglio gli argonauti videro il lontano balenio delle torce e, applaudendo a quel segnale, si precipitarono a Iolco, dove nessuno si oppose al loro ingresso. Giasone, tuttavia, che temeva l'ira e la vendetta di Acasto, gli cedette il regno, né mai si permise di discutere la sentenza di esilio pronunciata contro di lui dal concilio di Iolco, poiché sperava un giorno di sedere altrove su un trono ben più potente. Alcuni negano che Esone fosse costretto a togliersi la vita e dichiarano che, al contrario, Medea, spillatogli dalle vene il vecchio sangue esausto, gli ridonò la giovinezza con un filtro magico, così come aveva già ringiovanito Macride e le ninfe sue sorelle a Corcira. Poi fece sì che Esone si presentasse, vigoroso ed eretto, alle porte del palazzo di Pelia. Indotto così Pelia a sottoporsi allo stesso trattamento, omise di pronunciare le formule necessarie e Pelia morì miseramente. Ai giochi funebri per le esequie di Pelia, celebrate il giorno seguente, Eufemo vinse la corsa delle bighe, Polideuce la gara di pugilato, Meleagro la gara di lancio del giavellotto, Peleo la gara di lotta, Zete la corsa podistica più breve e suo fratello Calaide, o secondo altri Ificro, la più lunga. Ma durante la corsa delle quadrighe, vinta dall'auriga di Eracle Iolao, Glauco, figlio di Sisifo, fu divorato dai suoi cavalli che Afrodite aveva fatto impazzire con l'Ippomane. Quanto alle figlie di Pelia, Alcesti sposò Admeto di Fere, al quale era da molto tempo promessa. Evadne e Anfinome furono bandite da Acasto e si rifugiarono a Mantinea in Arcadia, dove, dopo la purificazione, riuscirono a fare ottimi matrimoni. I cretesi e i micenei usavano il sangue di toro diluito con acqua come magico fertilizzante per i campi e per gli alberi. Soltanto le sacerdotesse della madre terra potevano berlo puro senza esserne avvelenate. Per i mitografi classici fu difficile stabilire se Medea era un'abile e ipocrita illusionista oppure una vera maga. I calderoni della rigenerazione sono comuni nella mitologia celtica. Ecco perché Medea pretende d'essere una dea iperborea, che può significare britannica. Pare che la sostanza della leggenda nasca dal rito della mezza estate, quando il re sacro, con una maschera di ariete sul viso, veniva massacrato sulla cima di una montagna. Si facevano poi bollire in un calderone le sue membra e le sacerdotesse le mangiavano. L'ombra del defunto allora passava in una di esse e sarebbe rinata in un bimbo alla primavera seguente. Il fatto che Frisso fosse riuscito a evitare questo destino fu la causa originale della spedizione degli Argonauti. I serpenti che trainavano il cocchio di Medea, i serpenti sono creature dell'oltretomba, avevano ali perché Medea era in parte dea della terra, in parte dea della luna. Essa appare qui in triplice forma come Persefone, Demetra, Ecate, le tre figlie di Pelia che fanno a pezzi il padre. La teoria che il re solare sposasse la dea lunare e che essa lo invitasse poi gentilmente a salire sul suo cocchio mutò col consolidarsi del sistema patriarcale. In epoca classica il cocchio trainato da serpenti era proprietà indiscussa di Elio e nel mito più tardo di Medea e di Teseo Elio imprestò il cocchio alla nipote Medea soltanto perché essa correva pericolo di morte. Anche la dea terra del Ramayana usa un cocchio trainato da serpenti. Callimaco pare attribuisca alla cacciatrice Cirene la vittoria nella corsa podistica ai giochi funebri di Pelia.